alle le donnine del Brasil, con gran beltà, in verità, e tutte hanno negli occhi un fascino gentil, quel più bel fior dai fulgi di color, e la muchacha che m'ha preso il cuore. Ai ai ai Maria, Maria de Bahia, sei soltanto tu la gioia della vita mia. Ai Maria, se mi baci tu, sento un fuoco di passione che mi brucia il corazon. Ai ai ai Maria, Maria de Bahia, quando tu sorridi tutto il mondo è d'allegria. Ai Maria, vieni in braccio a me, altra donna non c'è che sia bella come te. Col tuo cantar, col tuo ballar, tutta Bahia hai saputo conquistar. Ai ai ai Maria, Maria de Bahia, sei soltanto tu la gioia della vita mia. Ai Maria, se mi baci tu, sento un fuoco di passione e mi brucia il corazon. Ai ai ai Maria, Maria de Bahia, sei soltanto tu la gioia della vita mia. Ai Maria, se mi baci tu, sento un fuoco di passione e mi brucia il corazon. Ai ai ai Maria, Maria de Bahia. Ai ai ai Maria, Maria de Bahia.